da Labia Ayala, lotte e resistenze dal Mesoamerica ai tempi del coronavirus. Salve a tutte e a tutti e benvenuti. Benvenuti a Radio Quarantella Napoli. Questa è la rubrica Abia Ayala, voci dall'America Latina. Anche oggi, come la settimana scorsa, saremo in Cile. Ma del Cile oggi proveremo a toccare e a scoprire i territori più profondi, quei territori ancestrali del popolo Mapuche. Di questo popolo cercheremo di scoprire le speranze, le lotte, le resistenze, le forme di organizzazioni e tutte quelle spinte verso l'autonomia che da secoli mantengono vive la loro storia e la loro cultura e che ancora oggi ispirano numerosissime lotte in tutto il pianeta. Con noi in questo viaggio ci accompagneranno Alessandro Rocco e Tony Bictano Music, ma con loro ci saranno anche due persone eccezionali, Giovanna Tabilo e Cristina Romo Peralta. Benvenuti. Fuerte como la montaña, un nuevo mañana hay en cada batalla. Desde Hualmapu hasta la tierra maya, una rebelión emana en Abya Ayala. ¿Por qué no crucé la frontera me cruzó? Si alguien sobra en esta tierra es el treo invaso. Con el calor del sol y mi yuque, defienda lo mío que delito me impute. Mapuche se introduce a la pelea, no saquea ni la tierra más seca se quea. Tu resetea, deca y todo por recuperar. Renacer como las cenizas del volcán. Oye este canto de mi ancestro, por la vida en armonía con el universo. Del agua ría verso por la unía de mi pueblo. Cumemos gen meo, hemos vuelto. Cumemos gen meo, a ser libre por resuelto. No calla, en cada batalla le ponemos más gana. Como tu pacamari, pelom charu con acaya. Esto no es América, es vuelva puya via yala. Pasa la raya, no calla. En cada batalla le ponemos más gana. Como tu pacamari, pelom charu. Con acaya, esto no es América, suelva bulla via yala, pasa la raya. Fucking masones se caldean por billetes, fletes del New Order donde lore giran cheques. Se ve que van a Marte con esos juguetes, para que en el sur en vez de mano no crecen machetes. Brutalidad es la cruda verdad, en legalidad la empresa viene a desangrar la madre. El cambio germina el estilo de vida lleno de que tú quieras darle. Se haya habilidad adquirida en una colectivizarse. Se van de avance en panzer con armas de largo alcance. Amarse, prepararse para pararse por la clase. Armarse de conocimiento y sustentar con base, y hacer crecer del suelo lo que compras en envases. Un jarun quinacho, una simita, vida en los Andes. Y militares, autonomía en la sangre, sigue las luchas ancestrales. Ante máquinas de capitales, de capital y de ales. Desde mi gente aborigen hasta el esquinge, tiempo exige organizarse. No calla, en cada batalla le ponemos más gana. Como tu pacamari, pelom charu con acaya. Esto no es América, suelma puya via yala. Pasa la raya, no calla. En cada batalla le ponemos más gana. Como tu pacamari, pelom charu con acaya. Esto no es América, suelva puya via yala, pasa la raya. Contra el pensar de Malinche, capital y su fetiche. Nuestra pena abierta se deshinche, el neo en relinche. Aprendiendo de los quinche, el racismo linche. Hinche mapuche en cómico, pinche arte enganche. Quechua y mapuche, aquí están los indios retrasados. Los que hemos sido despojados, violentados. Porque la tierra no hemos explotado. Por hablar mabudungun, golpe y hematoma. Lo vivieron los abuelos, llámanos en nuestro idioma. Tainke, un tainkimon, como un yoga. Yo gané, porque la derrota no conocer tu historia. Yika que la ya in newen ye in ninchin. Yukov que la ya in inchekin tun weopin. Chocle che canta in wunen que chelelin. Ya fullo que le in mapu meo pile in. No calla, en cada batalla le ponemos más gana. Como tu pacamari pelom charu con acaya. Esto no es América, suelma puya via yala. Pasa la raya, no calla. En cada batalla le ponemos más gana. Como tu pacamari pelom charu con acaya. Esto no es América, suelva puya via yala, pasa la raya. Radio Quarantella Napoli, anticorpi dai bassi. Giovanna e Cristina sono due delle portavoci del Maci Celestino Cordova. Il Maci, in Mapudungun, nella lingua mapuche, nella cultura mapuche, è una guida spirituale, ma anche un capo politico, perché bisogna riconoscere che nella cultura mapuche nella considerazione del mondo mapuche, lo spirituale e il politico sono estremamente uniti, si intrecciano costantemente, non si può immaginare la vita del popolo mapuche se non si considera anche tutto il suo lato spirituale, quell'attaccamento alla terra, alle tradizioni e alle forme di riconoscimento della terra e degli ancestri che portano avanti le lotte e le resistenze di questo popolo. Il Maci Celestino Cordova si trova tuttora incarcerato nella carcere di Temuco. È accusato ingiustamente di omicidio e da ormai più di 3 mesi sta portando avanti insieme ad altri maci uno sciopero della fame. Uno sciopero della fame che è attuato e portato avanti per rivendicare i propri diritti come essere umano e i diritti del popolo Mapuche. Diritti che sono stati sanciti dal convegno 169 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro e che il Cile ha sottoscritto nel 2008. Di questo e di altro ancora parleremo con Giovanna e Cristina, per cui senza perdere altro tempo farei direttamente già una prima domanda a Cristina. Cristina, qual è la relazione tra lo Stato cileno e la popolazione mapuche e quali sono state storicamente le strategie che lo Stato ha adottato per cercare di piegare la vostra resistenza? Ma soprattutto, quali sono state le risposte che voi avete messo in campo contro la repressione? Lo que hay que entender es que el Estado de Chile, desde su conformación, a partir de la independencia... A propósito della situazione del popolo Mapuche, bisogna capire che lo Stato cileno, fin dalla sua nascita come nazione indipendente, si è sempre rifiutato di riconoscere i Mapuche come popolo, esercitando una violenza politica continua e applicando ogni sorta di legge repressiva nei confronti dell'espressione dei Mapuche come popolo. In questo senso, anche in anni più recenti, cioè dopo la dittatura di Pinochet, lo Stato cileno ha esercitato la repressione nei confronti di ogni tipo di riorganizzazione del popolo Mapuche. Durante i primi anni del governo di concertazione, subito dopo la dittatura, il popolo Mapuche ha messo in atto molte forme di resistenza e organizzazione, in particolare i recuperi territoriali e produttivi, che hanno provocato una dura risposta repressiva da parte dello Stato. Scusa Cristina, ma che cosa intendi quando parli di recupero della terra? Recuperación se entiende como ir a, por ejemplo, terrenos que hoy día son de propiedad de las forestales. Per recupero territoriale dobbiamo intendere l'occupazione di terreni oggi proprietà delle imprese forestali per rivendicarli come territorio mapuche e intraprendere un processo produttivo che consiste nella semina di grano e patata principalmente. Quando iniziano i primi recuperi territoriali, il governo invoca subito la legge antiterrorista, facendo i primi prigionieri politici. Comincia così un'escalation repressiva, con sgombri delle terre occupate e l'arresto dei principali dirigenti. Dopo c'è stato un processo di rivitalizzazione dell'organizzazione nel territorio Mapuche, con la nascita di molte realtà orientate al discorso dell'autonomia. Ciò avviene anche a Santiago, nella capitale, dove ci sono molti abitanti Mapuche che per sfuggire all'impoverimento delle loro comunità sono stati costretti a emigrare alla ricerca di lavoro. Allora c'è stata una fase in cui sono stati presi di mira i dirigenti, che chiamiamo lonco, cioè i leader delle comunità, e anche i loro portavoce, che si denominano Varken. Poi è venuta un'altra fase, in cui sono state prese di mira le autorità spirituali del nostro popolo, i Maci, ed è in questa fase che comincia la persecuzione e la detenzione dei Maci Tito, della Maci Milarai Huichalaf, del Maci Fidel e anche del nostro Celestino Cordova. Allora, noi crediamo che la strategia sia stata di prendere di mira prima le autorità politiche del nostro popolo per poi passare a quelle spirituali, tra cui il nostro Celestino Cordova, come un modo per colpire il popolo mapuche direttamente nella sua essenza, che è la nostra spiritualità. Perché hanno capito che siamo un popolo la cui identità politica è fortemente incentrata sul piano spirituale. Ciò spiega l'attacco subito dalle nostre autorità spirituali maci. Luego pasaron a nuestras autoridades espirituales. Y en este segundo oleada está nuestra autoridad ancestral Machi Celestino Córdoba. Como nosotros pensamos como una manera. Oggi ci troviamo in una situazione in cui il nostro processo di rivendicazione di terre continua. Perché assumiamo che il nostro territorio ancestrale è molto più grande di quello che oggi è riconosciuto come territorio mapuche. E perché siamo consapevoli che il recupero dell'identità storica del nostro popolo è legato al recupero del territorio, al recupero della nostra lingua, Mapudungun, e anche al recupero della nostra spiritualità in tutti gli ambiti. Allora, per portare avanti questo processo, riprendiamo l'organizzazione ancestrale. A partire dal piano territoriale si organizza quello sociale. Si realizzano shagun, che sono riunioni in cui giocano un ruolo importante le nostre autorità tradizionali, l'ON. Quindi oggi siamo in questo processo di ricostruzione del popolo mapuche attraverso la ripresa di tutti gli elementi che ci costituiscono come popolo, ma la politica dei diversi governi è sempre stata la stessa. Persecuzione politica, arresto dei dirigenti e l'invio di forze repressive, come i carabineros e ultimamente anche polizia militarizzata. Persecuzione politica e encarcelación dei dirigenti, come también mandar a las fuerzas represivas, como los carabineros, y últimamente fuerza policial militarizada. A mí me mata la ley, a mí me mata la ley, a mí me mata, me mata, me mata, me mata, me mata la ley, a mí me mata la ley, a mí me mata la ley. Me mata, me mata, me mata, me mata la ley. Tiene el burgué la ley a sus pies. Instituciones compran con dólares. Aprueban megaproyectos medioambientales, aunque se pongan todas las juntas vecinales. La policía está a su merced para protegerle la propiedad privada. Para mandar a apresar al que entiende que el territorio se defiende. A mí me mata la ley, a mí me mata la ley, a mí me mata, me mata, me mata, me mata, me mata la ley. A mí me mata la ley, a mí me mata la ley. Me mata, me mata, me mata, me mata la ley. Palestina, genocida, ley. Ay, para Cuba el bloqueo son leyes. Para el mapuche terrorista, leyes. Para el chileno esclavizante, leyes. Para el pueblo pobre las penas son leyes. Para nuestros recursos las ventas son leyes. Para el que lucha la cárcel son leyes. Que aquí nos matan las leyes. caminando, que el patrón me está esperando, para que él siga engordando, engordando, y yo siga, siga adelgazando. Me tengo que ir caminando, que el patrón me está esperando, para que él siga viajando, viajando, y yo siga cumpliendo el horario. Que a mí me matan las leyes, que a mí me matan las leyes, que a mí me matan, me matan, me matan, me matan, me matan las leyes, que a mí me matan, me matan, me matan, me matan, me matan las leyes, que a mí me matan, me matan, me matan, me matan. Me matan la ley. Abbia la voce dall'America Latina. Rieccoci ai microfoni di Radio Quarantella, voci d'oltreoceano. Siamo con Cristina Romo e Giovanna Tamilo parlando della realtà del popolo Mapuche. Una domanda che volevo fare è: negli ultimi decenni l'aggressione al popolo Mapuche è dovuta principalmente dal incremento delle attività di un nuovo estrattivismo, cioè l'implementazione nel territorio Mapuche di numerose attività a forte estrazione di materie prime, come sono principalmente le forestali, di coltivazione di eucalipto e pini per la cellulosa e il legno, le idroelettriche, le estrazioni di idrocarburi, e persino gli allevamenti e le coltivazioni intensive. Vorrei chiedere quali sono gli impatti negativi principali di queste attività estrattive nel territorio Mapuche a livello anche ambientale oltre che sociale. Bueno, Mari, soy Giovanna. Lamentablemente hoy día el territorio sono Giovanna. Purtroppo oggi il territorio Mapuche e tutto il territorio cileno sono pieni di monoculture di pino ed eucalipto che hanno provocato una grande carenza d'acqua, perché questi alberi prosciugano tutte le cappe acquifere profonde della terra e non c'è modo di farle rigenerare nello stesso posto. Pensate che un solo albero di eucalipto consuma tra 80 e 300 litri d'acqua. Oggi il decreto forestale 711 dice che è consentito sfruttare il 30% del territorio nazionale per piantagioni di eucalipto e pino. Percentuale che si trova maggioritariamente nel territorio Mapuche, e per questo oggigiorno vi sono molte comunità senza acqua, circondate dalle forestali senza acqua. E questo problema non è legato soltanto alle piantagioni dei latifondisti e delle corporazioni internazionali. C'è anche il fatto che questi alberi permettono guadagni immediati, perché in pochi anni crescono, si tagliano e si vendono, e pertanto anche la nostra gente ha cominciato a piantarli. Inutile negarlo. Però va detto che spesso ci sono campagne politiche che portano questi alberi come regalo e insistono sul fatto che crescono velocemente e si vendono bene, portando guadagni immediati, tra virgolette. Sono metodi che tendono ad approfittare delle condizioni di necessità della gente. Vi sono poi gli allevamenti di salmone che stanno praticamente distruggendo i fiumi, e anche le imprese idroelettriche. Oggi abbiamo un problema enorme in un settore della decima regione, dove ci sono già stati intensi conflitti per il territorio, perché un'impresa straniera dello Stato norvegese sta costruendo una centrale idroelettrica in una zona che per noi è molto importante. Perché noi, i fiumi, le acque, le pietre, gli alberi, le persone, sono tutti molto importanti nell'ecosistema. Per noi il fiume, il Leufu, ha una connotazione spirituale. La nostra gente, quando viaggia, va ad abitare il Buenumapu, cioè quando la nostra gente muore e viaggia verso l'altro spazio territoriale, che noi chiamiamo Buenumapu, il territorio di sopra, il viaggio avviene attraverso il fiume e il loro spirito giunge all'Afken, che è il mare. E lì, dove mare e cielo si uniscono, Mahmapu con Buenumapu, loro riescono a scendere. E questo è uno dei principali motivi per cui è così grave che si stiano alterando i fiumi. Inoltre, soprattutto nella zona di Pilmaiken, i fiumi presiedono all'equilibrio del territorio e dei vulcani. Allora, se distruggiamo chi controlla e genera equilibrio nel territorio, il niente, i padroni del territorio, ci saranno sicuramente conseguenze negative, e non solo per gli esseri umani, ma per tutta la terra in generale. Che generano l'equilibrio nel territorio, a los niente, llamamos nosotros a los dueños del territorio, vamos a un caos seguro, y no solamente tiene que ver con los seres humanos, sino que con toda la tierra en general. Seremos correctos, nos defenderemos entre sí. Daim Kimon Meo, Daim Mabumeo. Por nuestra sabiduría, por nuestra tierra. Luchamos por la vida, aquí no es una arenga. Se guerrea, arrea con los bueyes que se tenga. Nos guían los abuelos en olor a campo vuelo. Sentirse libre como cabalgar a pelo. Sana la tierra, en mi view que lo he visto. Cuando se vayan las haciendas, pino y eucalipto. Creencia sigue humedad como humedal. Huecha no se reseca porque llueve torrencial. Pedirle al mapuche que deje de luchar, como pedirle al merquén que deje de picar. Camino ripiao, rapeao, sin pausa, al lado del agua como un sauce, memoria como un cauce. Mapuche taín, chin rumel monel, huehuain, na playa y taín, checantaín, suan femain. Dañi polila, multulai, winca sumunorlai, huesache kimlai, dañi cuifique un cupayai. Pido ne buena el cuifique cheyen, hoy la agonía más acompañaría en este tren. Gual mapu fue el Edén, también la sangre a cada andén. Kumeche caminaba aquí, se desplazaba bien. Su conexión es como lo que ahora llaman Zen. Su libertad alada era hasta el vuelo del Piuquén. Fue arrebatada de esta saga a nombre del amén. Hoy queda casi nada, solo llamas que aprender. Honrando al wey chafé en el Nakmapulif Piuqué. Mirando al buen humapu cual mi verdadera fe. No es de recielo más sagrado peñi del pehuen. Y al charicán pido que una diario más de buen. Yeah. Desde la poli el guay chafe y envuelve con la sangre de aquel piu que valiente. Un nuevo antú, dale fuerza a mi salada. Abby Ayala, voci dall'America Latina. Radio Quarantella Napoli. Voci, resistenze, risonanze, dissonanze. Una domanda forse un po' collegata anche con la situazione attuale della diffusione dell'epidemia del coronavirus, che in qualche modo coinvolge anche i territori mapuche attualmente. Io leggo che ci sono però delle forme di azione comunitaria, di azione autonoma da parte della gente mapuche, che riguardano soprattutto la capacità di avere un controllo territoriale e applicare misure di isolamento volontario e incrementare l'uso della medicina tradizionale e poi soprattutto anche diffondere esperienze di solidarietà e di autonomia e sovranità alimentare. Ci potete parlare un poco di questa situazione? Come si sta vivendo l'epidemia e come la gente e le organizzazioni, le comunità si organizzano e reagiscono? Hay una repercusión que es de carácter espiritual, ¿cierto? Que tiene que ver con nuestra relación con la naturaleza. C'è una repercussione di carattere spirituale che coinvolge il nostro rapporto con la natura e le diverse entità non materiali che sono presenti nel territorio. Ma vorrei mettere a fuoco anche un piano più politico. La presenza delle imprese forestali e di altri progetti di tipo estrattivista, come l'estrazione mineraria o altri, genera conflitti all'interno dello stesso popolo mapuche. E questa è stata una vera e propria strategia del sistema oppressore per dividerci e bloccare il nostro processo di ricostruzione come popolo. Perché dal momento che la nostra gente viene coinvolta in questi cicli di economia estrattivista, si generano divisioni al nostro interno, tra comunità che appoggiano i processi di resistenza e comunità che invece lavorano con le forestali. Si provocano così conflitti interni, ma anche una situazione repressiva piuttosto complessa, perché le forze poliziesche agiscono nel territorio mapuche, difendendo gli interessi delle grandi imprese, e ciò provoca tutto un sistema di controllo sociale nelle comunità, con territori praticamente militarizzati, con tecnologie molto avanzate che contrastano fortemente con la realtà della nostra società impoverita. È normale, ad esempio, vedere da noi sentieri rurali pattugliati da forze militari attrezzate come se dovessero andare in guerra, con apparecchiature e armamenti altamente tecnologici, veicoli blindati come carro armati, droni ultratecnologici con telecamere e infrarossi per la visione notturna, allo scopo di controllare le nostre comunità e le nostre vite. Queste sono le condizioni in cui viviamo oggigiorno in molti territori e che non possono certo considerarsi normali. Non vi può essere normalità quando ci sono droni che volano in giro notte e giorno controllando il tuo spazio. Non vi può essere normalità quando hai blindati che vanno e vengono a due passi da casa tua. E non può esservi normalità quando la polizia militarizzata, come ad esempio i berretti neri, un reparto specializzato dell'esercito cileno, si trova a occupare il territorio mapuche. Allora, tutte queste situazioni generate dalla presenza delle imprese estrattiviste hanno delle ripercussioni molto concrete sulla nostra vita quotidiana, ma anche sulla nostra organizzazione, ed ha ripercussioni sociali, dato che divide le comunità tra loro. Questi sono tutti elementi usati da questo sistema per dividerci e sottometterci e per ostacolare il nostro processo di ricostruzione come popolo. Quindi non si tratta solo della questione spirituale, che certamente è un punto importante, perché a mano che ci viene sottratto territorio, ci viene sottratto lo spazio vitale dove praticare la nostra spiritualità. Ma allo stesso tempo si provocano anche questi altri problemi più di ordine sociale. Si tratta di ripercussioni piuttosto ampie da vari punti di vista. Per questo è importante sostenere con enfasi e sottolinearlo bene che non vogliamo imprese estrattiviste nel nostro territorio. E questo è il motivo della risposta dei governi di militarizzare i nostri territori. Perché in sostanza si tratta dello scontro con il capitale finanziario transnazionale. In questo senso si può cogliere nella sua essenza il conflitto che ci attraversa in modo trasversale e che prende di mira tutti gli elementi di cui si compone il nostro essere popolo, sul piano sociale, culturale, economico, spirituale. Rispetto alla pandemia del coronavirus, la strategia di questo governo è abbastanza particolare rispetto a quanto fatto da altri stati, cioè il fatto di tenere in quarantena alcune comunas per un tempo limitato, altre no, per 10 giorni, poi tornare alla normalità, poi richiudere altre, tutto in modo piuttosto disordinato e incomprensibile, ma che non permette di tornare a generare l'organizzazione sociale che c'era prima del coronavirus. Ricordiamo che parliamo di un Cile che era in piena rivolta sociale a partire dall'ottobre 2019 e questo ha fatto nascere espressioni di solidarietà, fratellanza e ricomposizione politica e sociale piuttosto interessanti da parte del mondo non mapuche, perché ora anche al di fuori del mondo mapuche si comincia a comprendere tutto quello che noi abbiamo vissuto come popolo. Questo è stato uno degli aspetti della rivolta sociale, il comprendere quello che noi stavamo vivendo. Tutto il tema dell'ondata repressiva e della persecuzione e detenzione politica ha permesso a tutto il popolo non mapuche di mettersi nei nostri panni e capire che tutto quello che abbiamo vissuto durante questo periodo in realtà non era una bugia, ma una pratica sistematica dei vari governi che si sono succeduti, una pratica in fondo dei sistemi dominanti che opprimono i popoli. No. Bene, ben trovati da Radio Quarantella, voci d'oltreoceano, resistenze dall'America Latina con il popolo Mapuche. Vorremmo sapere, Giovanna, la situazione dell'epidemia come impatta sulle comunità Mapuche, come queste reagiscono, si organizzano, si autodifendono, si autocurano e diffondono forme di solidarietà. Bueno, el tema de la pandemia ha tocado bastante fuerte acá en las comunidades. La pandemia ha colpito con forza le comunità. Alcune hanno scelto autonomamente di mettersi in quarantena. Hanno chiuso il loro territorio impedendone l'ingresso, indipendentemente dalle decisioni del governo, in quanto era molto importante che le persone non si ammalassero. Abbiamo svolto dei wiliatun, cerimonie spirituali, nei quali le maci in trans ci avevano comunicato che si trattava di una malattia causata dall'uomo e qual era il rimedio dal mondo spirituale per autocurarci. Una delle indicazioni era di chiudere il territorio alle persone esterne. Ed è stato quanto hanno fatto diverse comunità. Nella zona di Temuco e Padre Las Casas, dove all'inizio era concentrato il maggior numero dei contagiati, la stragrande maggioranza non erano Mapuche, in quanto noi utilizziamo il lawen, il rimedio, servendoci degli alberi e delle erbe medicinali, conoscendo i trattamenti. Ci sono stati meno contagi e cure più rapide rispetto alla medicina ufficiale. Io e la Lamien Cristina siamo le portavoci dello sciopero della fame del Maci Celestino Cordova. Ed abbiamo visto come il virus è stato trattato dal governo in generale e nelle carceri. Se per la gente povera non c'è soluzione, per i reclusi che sono praticamente invisibili ci sono ancora meno risposte, ancora prima dei disastri fatti da questo governo rispetto al Covid-19, i prigionieri politici di Temuco parlavano di tutto ciò che aveva a che fare con la pandemia, di quanto era nefasto l'agire del governo. Addirittura utilizzando il virus per giustificare la decisione di mettere in libertà detenuti per crimini di lesa umanità e persone anti-Mapuche. Per esempio, il carabiniero che uccise Camilo Catrillanca, a cui sono stati concessi i domiciliari, in stridente contrasto con il disinteresse nei confronti della gente povera e dei Mapuche. Siamo in presenza di una decisione politica per mantenere in carcere molte persone che hanno tutti i requisiti per accedere ai benefici del sistema penale collassato in tutta la regione e in tutto lo Stato. Lo Stato ha messo il bavaglio su quanto accade. I mezzi di comunicazione, il quinto potere, si occupano esclusivamente di diffondere i messaggi governativi senza trasmettere quello che pensa la gente, comprese le raccomandazioni del Collegio Medico che il 20 marzo raccomandava la chiusura totale di Santiago, per esempio. E solo da ieri nei mass media se ne parla, quando ormai la quantità di morti è impressionante e la quantità di contagiati è impressionante. Nelle prigioni i detenuti si stanno ribellando. In questo momento è in corso una rivolta nel carcere di Colina 1 a Santiago de Chile, conseguenza della paura dei detenuti che conoscono il trattamento a loro riservato. La gendarmeria ha dichiarato che non farà test. I detenuti si stanno sentendo male, sono malati. Mi riferisco ai detenuti comuni di questo paese. La soluzione che noi proponiamo, i prigionieri politici Mapuche, il Machi Celestino Cordova nel carcere di Temuco e gli 8 prigionieri politici Mapuche nel carcere di Angol in sciopero della fame, e che venga applicato il convegno 169 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, che negli articoli 9 e 10 recita che qualsiasi persona condannata che sia d'origine indigena deve ricevere un trattamento diverso, conforme alla sua cultura. Il Cile ha firmato questo convegno nel 2006 e non lo applica. Oggi ci sono tutte le condizioni per attuarlo, per poter alleggerire le carceri, portar fuori i prigionieri Mapuche e delle altre etnie, così che facciano ritorno ai loro territori. Le richieste che il Machi fa con il suo sciopero della fame e legate al Covid-19, il Machi sta pidiendo come petitorio dentro di su sono di proseguire la sua detenzione a casa. L'applicazione del convegno 169, il cambio di misure cautelari di tutti i prigionieri politici Mapuche e non, che possano proseguire la loro condanna nelle rispettive comunità e domicili, il cambio di misure cautelari per tutti gli imputati dell'esplosione sociale, più di 1000 reclusi esclusivamente per le proteste e che si trovano in prigione, con il rischio rappresentato dal virus che sappiamo non essere curato in carcere. Ci sono grosse responsabilità del governo cileno e della gendarmeria che non hanno svolto il loro compito, salvaguardare l'integrità fisica e la vita dei detenuti, perché queste persone sono solo recluse, non dovrebbero essere private dei loro diritti. Questo è ciò che vogliamo noi, che i nostri diritti vengano ascoltati e rispettati. Crediamo sia urgente e necessario che la nostra gente possa compiere la sua condanna al di fuori del carcere. Abbiamo 31 prigionieri politici che stanno scontando le loro condanne nelle carceri di Concepción, Lebu, Angol, Taiwan e Temuco. In 5 città ci sono prigionieri politici Mapuche. Concepción, Lebu, Angol, Traiguén y Temuco. O sea, en 5 ciudades hay presos políticos Mapuche. ¡Al Mapuche por luchar! ¡Liberar! ¡Liberar! ¡Al Mapuche por luchar! ¡No hay chumel! Porque soy moreno, no libertad a nuestro machi Celestino Córdoba, a la machi Francisca Linconao. Basta de represión, basta de montaje. ¡Ya, ya, ya, ya! Quarantella Napoli. Grazie mille Joanna, sei stata molto chiara, molto efficace nella risposta. Abbiamo capito insomma quali sono le difficoltà che in questo momento i prigionieri politici Mapuche, le autorità spirituali e le autorità politiche Mapuche stanno soffrendo e stanno vivendo in questi momenti nelle carceri e quindi capiamo anche diciamo la necessità dello sciopero della fame che è stato indetto e per il rispetto del convegno 169 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Un'ultima domanda che vorrei farvi è come viene visto da parte della lotta e della resistenza Mapuche la protesta che nasce da ottobre del 2019 tra le strade del Cile più meticcio, del Cile più occidentalizzato, diciamo, non indigeno, per la richiesta di una nuova costituzione che spazi via la costituzione cilena della dittatura. Bueno, para nosotros el hecho de que la gente haya despertado. La gente si è risvegliata dal 18 ottobre in poi, grazie agli studenti stanchi della repressione statale. Noi da molti anni, decadi, secoli potremmo dire, come popolo veniamo repressi ed uccisi. Oggi al popolo non Mapuche è toccato scuotersi e scoprire cosa si prova all'essere eternamente oppresi. Noi abbiamo ammirato pubblicamente in più occasioni questa lotta che si è manifestata nelle strade di Santiago e in tutte le città cilene. Un conflitto enorme. Il Cile si era risvegliato. Io credo che oggi il Cile è solamente chiuso in casa, non si è smobilitato. Il fatto che la gente abbia riconosciuto il popolo Mapuche e che abbia issato la nostra bandiera al dire sì, riconosciamo la vostra sofferenza, perché oggi la soffriamo noi, è stato importante. Parlando della Costituzione dello Stato, quando i politici tra loro cercano di dare una soluzione politica al governo di Piñera, non ne avevamo trovato un senso, perché sapevamo che non si sarebbe realizzata. Hanno cercato di mettere la gente in questo contesto di nuova Costituzione e le persone hanno iniziato a discuterne, a trattare il tema, trattando di lasciare da parte ciò che in realtà stava accadendo. La gente ha iniziato a trattare il tema del cambio costituzionale, ma come diciamo noi, è come se dessero una pallina ad un gattino e lo mettono a giocare. Ed è stato così. Hanno dato anche una data per il cambio di costituzione politica, il 26 di aprile, ma nei fatti non è successo nulla. Hanno recentemente deciso di posticiparla ad ottobre, ma ti posso assicurare che anche ad ottobre non succederà nulla, perché non hanno nessun interesse a cambiare la Costituzione. Abbiamo un governo capitalista. Il presidente è un imprenditore che protegge gli industriali, non protegge il popolo e la sua gente. Pertanto gli conviene mantenere la Costituzione di Pinochet, una Costituzione il cui obiettivo è soggiogare il popolo. Questo per me è un tema molto importante attualmente. Credo che in molti condividiamo questo pensiero. Ho avuto modo di parlarne diffusamente con diverse persone mapuche da ottobre ed abbiamo condiviso l'idea che non sarebbe successo nulla. E da ora non c'è stata una votazione e non è cambiato nulla. E nel tempo scomparirà l'intenzione di un cambio. Mia madre diceva, dalle buone intenzioni è pavimentata la strada dell'inferno. Bueno, mi mamma decía, de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno. Grazie mille compañeras, Giovanna e Cristina, grazie mille per le parole che ci avete regalato, per quello che ci avete spiegato e ci avete fatto capire. Cercheremo come sempre di raccogliere, diciamo, l'esperienza delle popolazioni indigene che stanno lottando per poter anche noi nel nostro profondo occidente cercare di generare dei cambi strutturali che possano portare al riscatto del popolo contro le imprese e contro il sistema capitalista. Innanzitutto vorremmo ringraziarvi per averci invitato a partecipare a questo programma. Vorremmo mandare un saluto a tutte le persone che ci stanno ascoltando e dire che da qui, dal Cile, dal Gualmapu, vi inviamo mucho Nehuen. Noi diciamo Nehuen Tulaim Lamiem. Andiamo che assieme con la forza tua e la mia ci alziamo ed andiamo avanti. Ringraziamo anche per aver avuto la possibilità di parlare delle condizioni del Machi Celestino Cordova e dello sciopero della fame. Chiediamo solidarietà. Scrivete ed inviate lettere, telefonate alle carceri, al consolato, tutto quello che potete fare, soprattutto ora che già avete la possibilità di uscire dalla quarantena. Potete inviare una lettera al consolato del Cile, dalle vostre città, affinché il presidente del Cile sappia che la gente dall'estero è preoccupata per questa situazione, perché a lui interessa moltissimo quello che pensano i paesi stranieri. Quindi è estremamente importante fare pressioni da altri territori. Vi ringraziamo infinitamente. Lamien, chal tumai, grazie. Teucayal, ci vediamo presto. Teucayal, nos estaremos viendo nuevamente. Grazie mille Giovanna, grazie mille Cristina, sottolineiamo infatti l'importanza di esprimere la solidarietà internazionale allo sciopero della fame delle guide spirituali mapuche, dei rappresentanti anche politici delle comunità mapuche attraverso lettere, carte, lettere, messaggi, pressioni di ogni tipo verso i consolati, l'ambasciata, le autorità cilene. Solidarietà con lo sciopero della fame di Celestino Cordova e degli altri prigionieri politici mapuche. Vale la pena ricordare che il popolo mapuche è famoso storicamente per essere stato uno dei pochi popoli nel territorio di quello che oggi chiamiamo America Latina che ha resistito fino all'ultimo, non è mai stato conquistato dagli spagnoli. Vale la pena ricordarlo, è proprio un esempio di resistenza storico emblematico. Ecco. Bene, grazie ancora alla compañeras e ci risentiamo presto da Voci di Abya Yala, Voci d'Oltreoceano. Arrivederci. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, compañeras. Muchísimas gracias. Gracias. Y hasta pronto. Hasta pronto. Un gusto. È un callal. Gracias todavía. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Plegaria de un mar amenazado, Mewin. son mis murmullos que van y vienen suplicando. No a los destructores del paisaje, que no pisen esta tierra. Estoy gritando, dejen que mis peces vivan. No los maten desechos tóxicos de celulosa. Que los cisnes sigan anidando en la ribera del río Lingue que se desliza. Que las algas dancen, las gaviotas giren y se dibujen en mi espejo de mar. A nuestra mapu debemos cuidar, a todos los que debemos respetar. Están en la montaña, en el río, en el mar, en plantas, animales y en todo lugar. Siempre pide permiso para interferir en la naturaleza de su existir. Es parte de nuestro crimen ancestral, esa sabiduría que se llama el yam. El huinca no sabe y jamás sabrá con su medio su entorno vivir en paz. Cuando solo tenga muerte alrededor entenderá que un billete no tiene valor. Alza la mano si respetas el yam. Alza la mano si honras tu pan. Alza la mano si cuida nuestra mapu, respetando a los abuelos que en ella están. A Seiko le digo, fuera. A Minisco le digo, fuera. A Andesa le digo, fuera. A Veneto le digo, fuera. A Pascualama le digo, fuera. A los basurales le digo, fuera. A la minera le digo, fuera. Fuera de mi tierra. Así que fuera de mi mapu digo basta ya. No van a lucrar a costa del saqueo ambiental. No. Se van a tirar, mira, se van a tirar. Si no quieren entender, pues le daremos huellar. Rápidamente el puto preocupa y pulan bien. Mucha mira ya respeten. De esta manera yo le haré entender que cada ser vivo de esta tierra tiene su men. Que cada planta animal también tiene su nehuen. Salva, salva la naturaleza de la mano del cuenca que la quiere arruinar. Ya. Salva, salva tu madre tierra para que no se apague tu crimen espiritual. Al Delini le digo, fuera. A Madre le digo, fuera. A Lucin le digo, fuera. A Urban le digo, fuera. A Lucinga le digo, fuera. A Figueroa le digo, fuera. A Pello le digo, fuera. La hora va a desenmascarar a todos los corruptos que nos vienen a robar, a todo el empresario que nos viene a usurpar. Que se vaya de esta tierra si la va a contaminar. No queremos que la zona sufra cada vez más. Exigimos un ambiente limpio, paren ya. Un llamado a la gente la hago en este momento. Daño que Mapu está sufriendo un gran tormento. Explotando los recursos nos dejan sin sustentos. Máquina, instrumento para el sufrimiento. Empresario codicioso, detente un momento. Porque los mapuches no te compran ningún cuento. Y escucha un momento, escúchame un momento. Los mapuches estamos unidos y bien atentos. Y escucha un momento, escúchame un momento. Si siguen explotando las tierras estaremos muertos. A Seiko le digo, fuera. A Minisco le digo, fuera. A Andesa le digo, fuera. A Veneto le digo, fuera. A Pascualama le digo, fuera. A los basurales le digo, fuera. A la minera le digo, fuera. Fuera de mi tierra. Hermano, nuestro ambiente tenemos que cuidar. Luchando con empresas que vienen a ensuciar. Los huicas su bolsillo solo quieren llenar. A costa nuestra mapu que vienen a explotar. Llenando nuestro lepú de productos químicos. Y nuestro lagen de residuos tóxicos. Los proyectos que ejecutan solo vienen a matar. En el buen de mi tierra esto no va a perdonar. Por eso fuera y basta de su ambición. De todo lo que rompe nuestra como visión. Fuera porque no saben respetar nuestra ecología, nuestra vida natural. Cada día hay menos aire en el cual respirar. Y menos tierra en la cual poder trabajar. Tomen conciencia del daño que produce. Que cada año que pasa mi mapu se reduce. A Delini le digo, fuera. A Madre le digo, fuera. A Lucin le digo, fuera. A Urban le digo, fuera. A Lucinga le digo, fuera. A Figueroa le digo, fuera. A Pello le digo, fuera. Fuera de mi tierra. A Seiko le digo, fuera. A Minisco le digo, fuera. A Andesa le digo, fuera. A Veneto le digo, fuera. A Pascualama le digo, fuera. A los basurales le digo, fuera. A la minera le digo, dalla Via Ayala, lotte e resistenze dal Mesoamerica ai tempi del coronavirus.